innanzitutto questo, c'erano lì 10 persone, anche perché il preside degli istituti di Castelvetrano ha praticamente proibito ai ragazzi di partecipare a questa iniziativa, quindi non significa questo che i ragazzi non sarebbero andati a quell'incontro, significa però che qualcuno ha proibito loro di andare, tra l'altro scrivendo poi un messaggio dicendo di essere commosso dal fatto che a quell'incontro non si sia presentato nessuno, commosso ovviamente in senso positivo. Certo, ma com'è possibile? Secondo il suo linguaggio. Cioè, che messaggio è il fatto che incontrando degli studenti, si doveva incontrare degli studenti per educarli alla legalità e un preside dica no, non andate? Perché tra l'altro in questa conferenza c'era anche un collaboratore di giustizia, cioè un pentito. Ma io credo che il problema sia stato proprio non tanto sicuramente il fatto che lì parlasse Antonin Groia, altrimenti questo non sarebbe successo, se il fatto deriva proprio dal fatto che fosse presente Vincenzo Calcara. Vincenzo Calcara è una persona che a Castelvetrano, dall'ambiente che ancora evidentemente ha a che fare o sente gli stimoli del clan mafioso, è profondamente odiato, perché Vincenzo Calcara era un uomo d'onore riservato, cioè quegli uomini d'onore che sono noti solo al capo mafia di Francesco Messino Denaro, e Vincenzo Calcara, dopo aver incontrato Paolo Borsellino, dato che Vincenzo Calcara è la persona che avrebbe dovuto uccidere Paolo Borsellino con un fucile di precisione, secondo quelli che erano stati gli ordini della mafia sulla strada tra Palermo e Agrigento, Vincenzo Calcara ha cambiato completamente i suoi punti di vista ed è diventato uno dei pochi veri pentiti che ci sono in Italia. Cioè, non Calcara, è un collaboratore di giustizia, è veramente un pentito. Era colui che doveva uccidere suo fratello e che però, incontrando suo fratello, poi ha cambiato idea. Esatto, cioè, l'ha cambiato in maniera totale. Io ho conosciuto Vincenzo Calcara e con cui tra l'altro Paolo aveva un rapporto molto speciale, perché lo seguiva, lo aiutava e avevano stabilito un rapporto addirittura di amicizia con questa persona. E per questo Vincenzo Calcara, siccome ha rivelato tutto quello che solo lui poteva sapere, in quanto era una persona veramente vicino a Francesco Messina Denaro, e la persona praticamente dal ragazzo era stato messo da Francesco Messina Denaro a tutela del figlio, che era ancora piccolo allora, aveva 3 o 4 anni meno di Vincenzo Calcara, e lo accompagnava in tutto, lo difendeva eccetera, e questo evidentemente per la cosca mafiosa di Castelvetrano, che è una delle cosche mafiose più forti della Sicilia, in quanto è quella che ha a che fare con la mafia, con la massoneria, ha a che fare con i servizi segreti deviati. Insomma, la sua presenza non è gradita a qualcuno? No, sicuramente la sua presenza dire che il sindaco... non è gradita, tanto più non è gradita all'ex sindaco Vaccarino, il quale era il consigliore di Francesco Messina Denaro, il quale è stato condannato purtroppo solo per traffico di droghe, non per associazione mafiosa, e adesso che ha scontato la sua pena è riuscito addirittura a infilarsi nelle associazioni antimafia, a riciclarsi in questa maniera. Beh, adesso io la vicenda, ho letto che c'è qualche problema, adesso la vicenda giudiziaria non la conosco nel profondo. In ogni caso c'erano 10 persone, perché c'era anche la presenza di questo pentito Vincenzo Calcara, e a qualcuno insomma la presenza di questo pentito non è piaciuta. Però le chiedo, che effetto fa il fatto che appunto si va, anche spesso si dice, si deve andare nelle scuole a insegnare la legalità ai ragazzi, e a questo evento nel quale c'era anche l'attuale sindaco di Castelvetrano c'erano 10 persone, ma 10 persone compreso il procuratore Ingroia, cioè coloro che dovevano parlare, quindi non so, tra il pubblico ce n'erano 3 o 4 forse. Sì, evidentemente le pressioni di chi comanda ancora in quella zona della Sicilia, perché purtroppo è una delle zone più retrive della Sicilia, sicuramente si fanno sentire, e di conseguenza qualcuno avrà dato l'ordine di non presentarsi. Ma la vivete, non so, come una sconfitta oppure come qualcosa da minimizzare? No, io non la vivo non so come la, probabilmente la cosa per quanto riguarda Vincenzo Calcara gli sarà veramente pesata, perché una persona, ripeto, che crede oggi fermamente nella giustizia, e la sua forse è stata troppo una sfida. Io gli avevo sconsigliato di andare a Castelvetrano, ma gli avevo sconsigliato perché ritengo che in quella zona della Sicilia Vincenzo Calcara sia addirittura a rischio. Lui è di nascita proprio di Castelvetrano, lui è di Castelvetrano, è nato sì, lì. Sì, quindi... infatti, sia a rischio di vita perché è una persona profondamente odiata. Lei si ricorda quello che succedeva a Buscetta, per cui tutti lo chiamavano l'infame e diciamo lo insultavano nelle peggiori maniere. Ecco, Vincenzo Calcara nella zona di Castelvetrano è esattamente in quelle condizioni. In ogni caso io la ringrazio Salvatore Borsellino per essere stato con noi. È uno spaccato che ovviamente sui giornali, che presi da tutt'altro in questi giorni, ha occupato davvero poche righe. In 10 ricordare Borsellino, questo titolava ieri Il Sole 24 Ore con Nino Amadori a Castelvetrano, una cerimonia disertata, e mi sembrava giusto dare spazio, dare conto a questa vicenda. Grazie a Salvatore Borsellino, il fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso in Via D'Amelio con la sua scorta. E che dire, noi ci fermiamo per pubblicità e meteo, poi nel nostro sondaggio parliamo di scuola, perché c'è una scuola a Milano, non è la prima che lo fa, ma sta suscitando un dibattito, ha deciso di pagare cash, banconote, soldi sonanti ai ragazzi che hanno tutti 8. Cioè non un premio, non so, dei buoni libri, proprio soldi, 150 euro, toh, prendetevi 150 euro perché siete i più bravi a scuola. È un messaggio giusto, è un messaggio sbagliato, che ne pensate? È giusto pagare soldi agli studenti più bravi? Radio24.it, votate, oppure 800 24 00 24, siamo qui che vi aspettiamo, siamo anche su Facebook, incredibile, 24 mattino su Facebook, tra poco. 24 mattino. Alle 8:33 minuti, eccoci qua a parlare della scuola, parlare di scuola e di un'iniziativa che sta facendo discutere, ha suscitato un dibattito, di una scuola di Milano, non è la prima per la verità che lo fa, che vuole premiare con denaro, contante, con soldi, i ragazzi più meritevoli, i ragazzi che hanno i voti più alti. Siete d'accordo? È il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Detto che per ora con il 60%, 61 anzi, mi correggo, prevalgono i sì, votate su radio24.it. Ne discutiamo, discuteranno questa iniziativa la professoressa Chiara Saraceno, sociologa della famiglia e professoressa di ricerca a Berlino. Ben ritrovata, professoressa Saraceno. Buongiorno. Così come saluto il professor Giacomo Vaciago, che insegna alla Cattolica di Milano. Professore, eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti. Però ma voglio dar spazio intanto alla protagonista, la preside dell'ITIS Feltrinelli di Milano, Anna Maria Indinimeo. Preside, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è quella che insomma ha detto sì, diamo 150 euro credo agli studenti. Allora innanzitutto non da sola, perché le decisioni sì, beh, certo, nella scuola chiaro, si prendono sempre a però lei è la preside, ecco. Sì, comunque assolutamente ero d'accordo e ho sempre caldeggiato nella mia scuola la promozione delle eccellenze. 150 euro si pensava appunto per gli studenti che avessero la media dell'8 al primo quadrimestre, e invece un premio inferiore per i ragazzi che avessero una media tra il 7 e l'8, ma che comunque si fossero distinti in una serie di attività. E la novità è che noi premiamo al primo quadrimestre proprio per disincentivare la corsa finale verso la promozione, perché molti ragazzi sottovalutano. Studiano alla fine. Sì, e molti genitori sono convinti che i propri figli siano bravissimi a fare queste cose. Infatti quando chiamiamo i genitori non raramente ci troviamo di fronte a due signori che ci dicono no, ma lei non si preoccupi, guardi, mio figlio nel secondo quadrimestre recupera tutto. E invece voi volete premiare chi da subito, no? Sì, si dà da fare. E chi approccia questo lavoro con un impegno costante, ecco, come si dovrebbe approcciare qualunque tipo di lavoro. Sì, non... senta preside, sì, il tema che ha fatto discutere questo, per esempio oggi Marcello Dorta sul Quotidiano Nazionale, colui che ha scritto tra l'altro Io speriamo che me la cavo, dice ma come, in denaro, ma quando era nei miei tempi si dava una bella pacca sulle spalle da parte dei genitori, hai fatto il tuo dovere, adesso basta prendere un 7, un 8, ci sono i motorini, le vacanze a Sharm el Sheikh, i capi firmati, ora anche il denaro contante. Ma Io non capisco perché si scandalizzino, visto che le borse di studio, Marcello Dorta lo dovrebbe sapere benissimo, ci sono sempre state, anche quando ero ragazzina io, molti tiravano avanti con la borsa di studio data dall'azienda dove lavorava il padre, piuttosto che dal ministero, piuttosto che da altri enti. Non trovo che sia che ci si debba scandalizzare, e trovo che ci abbiamo pensato, che i ragazzi preferiscano questo, ci siamo anche consultati con loro, perché in questo modo fanno l'uso che credono. D'altro canto, scusate, mi sembra che sia molto meno scandaloso avere 150 euro perché uno ha la maglia del Lotto, anziché 20 euro di ricarica perché uno manda la foto delle sue parti intime col telefonino. Ah beh, questo, su questo non c'è dubbio, quindi non mi scandalizzo, del resto perché continuiamo... questo là ha toccato un tasto, perché purtroppo questo è un problema drammatico che succede nelle scuole odierne dei nostri adolescenti, quello che lei ha detto dei 20 euro per avere la ricarica. Mi sembra che comunque il denaro, come tutte le cose, non è né buono né cattivo, però visto che quando si lavora si continua a parlare di incentivo, sì, teoricamente chi lavora la di più, chi lavora meglio, certo, deve essere premiato. No, ma su questo tema della premialità, allora voglio sentire la professoressa Saraceno e il professor Vaciago. Saraceno, la premialità, è giusto premiare e così? D'accordo, sul fatto. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che si premi, e anche mi sembra un'idea molto intelligente e nuova quella di premiare chi lavora bene fin dall'inizio. Non mi scandalizzo, cioè il denaro ovviamente non è né bello né brutto, né sporco né cattivo, è anche giusto che i ragazzi imparino a usarlo. Quello che mi turba un po', o che mi lascia perplessa, è proprio il denaro a fondo perduto. Giustamente la preside ha ricordato che esistono da sempre le borse di studio, ma le borse di studio sono finalizzate. Perché allora non pensare a un voucher spendibile per una serie, sì, di cose, come ha fatto qualche scuola, quindi ha scelto degli studenti, sì, ma però mirato a consumi culturali, chiamiamoli così, abbonamento a un concerto, abbonamento presso una libreria per comprare dischi. Sì, qualche scuola l'ha fatto, cioè dire, non so, un buono per comprarti libri, per esempio la scuola a Roma. Ma magari anche fornendo, come dire, un menù per cui possano scegliere, per non vincolare, per non essere troppo paternalisti, però denaro che poi può essere invece comprato, usato per comprarsi le scarpe, eccetera, nulla di male in sé. Però non riesco a capire perché, come dire, la scuola debba finanziare quel tipo di consumo. Il denaro cash. Sentiamo il professor Vaciago, lei che ne pensa, professore? Perfettamente d'accordo con tutto ciò che è già stato detto, soprattutto con un aspetto però che merita riflessione. Le borse di studio sono attribuite per concorso. In altre parole, ci sono garanzie che quel voto che viene dato allo studente è meritato e competitivo. Ma molte scuole e molte università in Italia non fanno gli esami in modo serio, e quindi non abbiamo alcuna garanzia che i voti premiati siano davvero meritati. Io continuo a trovare in università che conosco che i bei cognomi e le belle ragazze hanno la media più alta degli altri, cosa che non può succedere in un'università straniera, perché là gli esami sono scritti, corretti in modo anonimo, e quindi ci sono molte garanzie di serietà. Anche gli esami delle scuole medie, per inciso. Da noi purtroppo abbiamo i voti in trentesimi, unico paese al mondo, parlo dell'università, perché la vecchia teoria era che tre professori, indipendentemente l'uno dall'altro, davano un voto da 0 a 10, ma non succede mai che ci siano tre professori a valutare lo studente. E quando gli esami sono orali e dai un voto a ciascuno di essi, indipendentemente dalla classe e dagli altri, non hai nessuna garanzia che stai facendo. Cioè, si parla di meritocrazia senza sapere cos'è. Cioè, la meritocrazia presuppone che ci sia un sistema che premi davvero chi merita di ma più. Ma la competizione nella nostra scuola è un argomento intoccabile. No, ma mentre io... sinistra, non è un problema. Sì. Ma io non so, vorrei capire se qualche ascoltatore, adesso magari lo chiedo a qualche ascoltatore che ci sta chiamando all'800240024, quando Marcello Dorta, forse è molto duro oggi, scrive, ma il messaggio implicito è che tutto ha un prezzo, pure l'impegno, pure la cultura. cultura, pure quello che un ragazzo dovrebbe fare normalmente. Oppure scrive tanti euro per un 7, tanti per l'8, a quanto, e questa è una provocazione, a quando 30 denari per sussurrare nell'orecchio dell'insegnante il nome del compagno che ha copiato il compito di matematica? Vabbè, sì, è una provocazione, però vorrei capire, non so, per esempio Antonella da Brescia, buongiorno, la scandalizza oppure no il fatto di pagare con denaro sonante, contante, gli studenti più bravi o quelli che hanno la media più brava? Innanzitutto a tutti. Io non sono scandalizzata da questo, secondo me. Guardi, io insegno da 15 anni, quasi 16, nella scuola pubblica superiore e inviterei veramente tante persone ad entrare in una classe oggi di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni per vedere la fatica incredibile che si fa. Guardi, io l'ho fatto una volta andando a trovare una mia professoressa, non lo farò mai più. Gente che lanciava le gomme, le parole, ma poi i fatti sono ben diversi. Comunque, la cosa che scandalizza di più, secondo me, è proprio questa difficoltà a fare uscire le eccellenze nella nostra scuola pubblica. Cioè, ma questo sì, Antonella, questo sicuramente, ma si discute se questo sia un metodo giusto per fare emergere o per premiare i più meritevoli, quello dei soldi, dico. Cifra simbolica, una cifra che non è esagerata e poi comunque magari anche unita a, non so, all'acquisto di prodotti che hanno un valore culturale eccetera eccetera, ma comunque può muovere nel ragazzo un certo interesse maggiore, un certo sentirsi considerato. Vabbè, insomma, lei Antonella non mi sembra, dice, non sono assolutamente critica su questa cosa. Bene, la ringrazio di questo. Vuole andare a Cesena da Carla, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. E niente, io volevo esprimere la mia opinione appunto sul mio disaccordo. Sì, in un certo senso sarà anche giusto. Però penso anche, insomma, di... scusa, sono un po' emozionata. Sì, no, ma ci mancherebbe. Qua siamo tra amici, siamo anche su Facebook. Ci sono tante altre persone che non hanno le possibilità economiche, insomma, di frequentare scuole pubbliche, ma altrettanto meritevoli. Io sarei più che dare soldi materiali, sarei più per dare dei buoni per i libri e queste cose come qui. Diceva la professoressa Saracino, chiediamo, esatto. preside, grazie Carla, preside in Dinimeo, l'idea di voti che diventano così una merce quantificabile con denaro vi ha toccato nella discussione, immagino, no? Ma sì, è stato toccato, a me sembra che si esageri, probabilmente si arriva a un paradosso. Allora, non è che noi diamo un prezzo a ogni voto, lo raccogliamo e poi bisognerebbe che Dorta sapesse che non chiediamo sicuramente ai ragazzi chi ha copiato, dovremmo essere in grado di capirlo noi. Allora, il problema è che noi premiamo l'andamento di un quadrimestre con questa sorta di borsa di studio. Ci sono state delle discussioni sul fatto di dire magari gli diamo il manuale tecnico piuttosto che un'altra cosa. Poi abbiamo deciso che fossero anche liberi di utilizzare come meglio credono, perché anche le borse di studio vengono elargite in denaro, poi naturalmente gli studenti le usano per frequentare l'università. Per gli studenti bisognosi, per gli studenti di famiglie in difficoltà ci sono altri strumenti, ci sono dei contributi che si danno per l'acquisto di libri, contributi per partecipare alle visite di istruzione, è un altro discorso, noi non facciamo una valutazione del reddito di questi ragazzi, ma vogliamo soltanto significare che la scuola ha accolto il loro impegno, che deve essere un impegno non soltanto scolastico con delle misurazioni numeriche. Vorrei precisare che oltre al fatto che uno studente ha dei buoni voti, noi valutiamo anche il suo impegno nei confronti dei compagni, nei confronti degli insegnanti, insomma, della vita scolastica. Posso dire così, dando le informazioni sul traffico, magari uno che si è impegnato così, si è messo in mostra così, se ha questi 150 euro contanti, si presuppone sia un ragazzo coscienzioso, una ragazza coscienziosa che ha studiato, che magari sappia usarli anche nella maniera giusta. Il traffico e poi rientriamo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, premiare con soldi contanti gli studenti che si distinguono in positivo, ovviamente, nella scuola pubblica. Professoressa Saraceno, intanto c'è anche qui il tema, qualcuno dice, ma come quella scuola pubblica, quella scuola che si lamenta un giorno sì, un giorno no, e anche giustamente, a volte perché non ci sono denari da spendere, quella stessa scuola pubblica, cioè non un'istituzione, non un comune che istituisce le borse di studio, ma la scuola stessa premia i propri studenti. È un discorso che regge secondo lei? Dato che sono soldi probabilmente presi dal bilancio. Ah beh, certo, questo sì. No, qui questo magari sì. Anche i genitori hanno contribuito, nel senso che non lo so come si siano stati raggiunti quei soldi. Io non mi scandalizzo, ripeto, trovo giusto premiare, non dare, come dire, graduare il premio per ogni 7 o ogni 8 che si prende, ma dare un premio. Non sono tanto d'accordo sul fatto che sia dato in monetizzarlo libero uso. Lo darei, sono d'accordo sul fatto che si possa far scegliere agli studenti, ai premiati, come spendere quel denaro, per cui dandogli un menù, ma i soldi così, questo sì non è un compito della scuola. Credo domenica verrà. Dovrebbe incentivare il consumo culturale, la formazione. Credo che domenica verranno consegnati. Prima di tornare dal professor Vaciaco, sentiamo Simone da Verona. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno Dica. A tutti. Ah, io sono particolarmente d'accordo con la professoressa. Non è assolutamente, secondo me, accettabile retribuire lo studente che studia. Lo studente bravo va premiato con libri, biglietti d'ingresso ai musei, a prescindere poi dall'utilizzo che questo ragazzo bravo e coscienzioso può fare del denaro. Perché dopo allora andiamo anche nel discorso che se ci va in discoteca è un malandrino. No, è un ragazzo che studia 7 giorni su 7 e sabato sera va a divertirsi bene lo stesso. Non è un problema se fa il bravo ragazzo. Anche, no, ma anche lei dice va bene premiare, ma non così. Cioè la consegna di denaro fresco non le piace molto, Simone. Anche d'accordo, una percentuale incredibile secondo me. È veramente è mercificare anche lo studio, mercificare il valore della cultura. A questo punto studieremo solo diritto, ragioneria e le materie minori che non valgono, filosofia, le lasceremo stare perché anche in futuro non danno reddito, no? Perché noi premiamo quelli bravi che studiano, diamo un valore economico allo studio. Ma quelli che studiano anche filosofia, no? Se devono avere tutti gli 8 anche se studiano filosofia, chiaramente. In ogni caso la ringrazio, Simone. Professor Vaciago, però lei dice se il problema sta nel manico, cioè come valutare e come decidere e chi valuta gli studenti, e visto che come sono i cognomi famosi e le belle ragazze sono sempre quelle che hanno voti più alti, insomma, come trovare un modo per premiare allora gli studenti migliori se il problema sta nel manico, professore? Dico, sono contento che questo dibattito serva anche a migliorare la qualità della valutazione degli studenti, perché alla fine il problema vero della nostra scuola non è che premio diamo ai migliori, ma come accertiamo i migliori. E quanto, attenzione, che tutto il problema dell'esame è che l'incentivo a studiare per lo studente è per meritare il bel voto. Certo. Quindi gli esami devono essere più seri, devono essere chiaramente fatti in modo tale che ci sia giustizia ed equità e professionalità nel fare gli esami. Tornando al premio in denaro, il premio in denaro è quello che più rispetta le preferenze dello studente di che impiego farne. Allora, noi ci fidiamo che questo è il migliore della classe e poi temiamo che vada in discoteca. Beh, insomma, mettiamoci d'accordo. Allora, che poi non è una colpa poi, professore, andare in discoteca. Non è una colpa poi andare in discoteca. No, dipende se la discoteca è a casa tua o è a casa degli altri. Ho capito dai giornali di questi giorni. No, parte, va bene, ecco. Almeno oggi lasciamo stare il bunga bunga, almeno per un giorno. Non so. Dica, professore. Allora, questo è il miglior ragazzo della scuola e io non penso che lui chissà come gli spreca quei soldi, ma allora tutto il teorema non regge, perché infatti, la professoressa Saraceno lo sa meglio di me, i trasferimenti in natura sono diversi dai trasferimenti in denaro proprio per il problema della valutazione dei bisogni e così via. Pensiamo al welfare, diamo soldi, cioè un reddito minimo alla gente e poi la spende come vuole, o gli diamo servizi e intanto teniamo sul loro tenore di vita in quanto gli diamo i pasti gratis? Questo è un dibattito che dura secoli nella letteratura. È chiaro, poi come avete detto giustamente, il denaro non è sporco in quanto denaro, sempre per l'utilizzo che se ne fa. Però professoressa Saraceno, siccome si dice sempre che la scuola è uno specchio anche di quello che succede nelle famiglie, i rapporti tra insegnanti e allievi e il rapporto tra genitori e figli, qualcuno dice è proprio sbagliato, no? Un tempo appunto non si dava la paghetta se uno andava bene a scuola, adesso si dà magari la paghetta, e così adesso anche le scuole. Un tempo si diceva bravo, adesso invece si premia, in questo caso con denaro. Non è vero che un tempo, io mi ricordo, si dava. Se si prendeva un 10, da magari si prendevano 25 lire. Ah, vabbè, c'era la paghetta. Occasionalmente poteva esserci, ma ripeto, condivido solo in parte il discorso di Vaciago. Qui non stiamo parlando di responsabilità o irresponsabilità degli studenti bravi, eccetera. Sto solo dicendo che il compito della scuola è di promuovere l'eccellenza, è di promuovere la formazione, sì. Premiare l'eccellenza e promuovere i consumi culturali e la formazione stessa, quindi ripeto, preferirei, pur senza scandalizzarmi, senza avere la posizione di Marcello Dell'Orta, che incentivasse, offrendo un menù, i consumi culturali e la formazione piuttosto che finanziare l'acquisto delle scarpe o una serata in discoteca, non perché trovi sbagliato andare in discoteca o comprarsi le scarpe, ma perché quello non è un compito della scuola, non è una specie di incentivo. No, se devo dire che Marcello D'Orta oggi, che non era ospite, l'ho letto sul Quotidiano Nazionale, è stato un po' stroncato, ma è quello più duro, ha scritto il suo pezzo con sopra la frase di Totò: e io pago. Ma comunque ringrazio il professor Vaciago, la professoressa Sara Cenere, la preside dell'ITIS Feltrinelli di Milano, Anna Maria Indini Meo. Il dibattito è aperto, allora pagare con contanti gli studenti più bravi. Il dibattito è aperto anche su Facebook, sì, io l'ho detto già in apertura, sono stato convinto e dunque 24 mattino ci trovate adesso anche su Facebook, oltre che su radio24.it, oltre che se accendete le frequenze, che è sempre la cosa migliore, ascoltate la radio, con Antonella Migliaccio in redazione, Filippo Aureggi oggi in regia. Che dire, do la linea come di consueto anche il venerdì a Oscar Giannino, e noi 24 mattino e radio24.it ci troviamo lunedì alle 7:20 e su Facebook quando e come volete.